Io rincoglionito le sceghe, per carità. No, io già sto attento, controllo sempre quando accendo la radio, prima di parlare controllo sempre, do un'occhiata che tutto sia così, a vista, che tutto sia a posto. Però l'altra volta mi è capitato che non avevo commutato l'antenna e non vedevo il watt, il metronomo, la T230 che saliva. Ha detto, ma all'uomo si è fatto 4,40. E invece poi ho dato un'occhiata al commutatore, sempre nella T230, visto che era in posizione 3, quindi era sull'altra radio. E invece deve rimanere in posizione 2, capito? Perché c'è il 430 in posizione 1, il 4,40 in posizione 2 e il 140 in posizione 3. E quindi subito ho commutato, meno male. Perché avendo tutto così visivo è più facile controllare, capito Tony? Nicola, vuoi riprendere? Tonino non ti ascolta, No, non riprende più, capito Tonino? Meglio, lo so, io guarda, sto a posto, boh. Però ma buttavo mai gli occhi sul Mike Ghee, no. Sull'RFG che non c'entra niente, tutte le giocate rimangono fuori. Niente, dopo un bel po', ma cavolo, mi aspetto il baracchino, ho fatto tre cose, sono tornato di nuovo qua dopo 30 ore, boh, come mai, poi guardo, ma è che in zero, oh balla, ho provato, oh, perfetto, ma che è possibile, prima ho pensato, mi sono bruciato il finale, boh. Non fa via nulla, il baracchino l'ho solo spostato, pulito, tutto quanto, e vabbè. Questa è la vecchiaia, mi Claudio, gli anni passano. Lo so. Stanno arrivando un po' di messaggi, ma non me li fa visualizzare. La massa che te ne vari al telefono di merda, che devono ovviamente cambiare la scheda, cambiare il telefono, prendere quello che c'ho di scorta, metterlo lì e visualizzare i messaggi. C'è qualcosa nel telefono per forza, ma anche Massimiliano continua a dirmi sempre così, l'ha dibuttato desi media volte, niente da fare, l'ho installato di nuovo stamattina, sembra che stava funzionando, invece si è tornato bloccato, non riesco a capire cosa cazzo c'ha questo telefono. A me sì, qualcheduno mi arriva che non riesco a aprirlo, dico rimandamelo. Questo non lo già lì riesco a dire, non sono belle cariche, io casino, secondo che telefono c'hai, ho 4G grazie a Dio, sta andando bene, scheda ultima quindi, e vabbè, niente, mi sono ordinato la telecamera per casa, quella piccolina, che posso vedere l'altezzamento del telefono, dovrei arrivarmi se lo vado errato, massimo dopodomani, o domani dopodomani. Ma quella da mettere nel piazzale? No, quella per casa, dentro casa. Ah, ma avevi detto... Sì, ti ho capito, ma scusa, perché non la metti anche fuori? Ne ho ordinato una, la posso mettere anche fuori? Sì, perché in casa io quando vado a lavorare i cani sono fuori, la lascio fuori e la metto sopra, sotto la tettoia, dove l'acqua lì non cade per niente, quindi posso anche metterla lì. Ma io vabbè, non c'è pericoli, c'è abitato, non è che i raietti si vira uscino, e poi ben di entri, è tutto recintato, cancello elettrico, telecamere, è un bel posto quello, mi piace un bel... Mi sarebbe piaciuta quella zona, soprattutto quella casa che c'hai dietro di te, quella grande che dovevo chiedere a Vittoria a vedere come l'ha messa, per vedere se c'era qualche business da fare, capito? Invece tu mi hai detto che devono vendere, che devono, cosa devono fare, buttare giù, cosa devono fare, le mettere a posto. No, loro hanno stimato che ci vogliono, non so se erano 30 o 40 mila euro per i soldi per metterla a posto. Allora prima volevano venderla, ora stanno pensando di anche affittarla, o fanno un B&B, insomma stanno pensando tutte, perché diciamo che viviamo in un anno un po' bruttino, nel senso che l'euro ci ha crepato a tutti, prima base. Seconda base c'è un po' di crisi, quindi io di questo ho la giusta e le affitta, almeno in cassa soldi. Luca Sucia, perché vendere un caseggiato così enorme, tu pensa che ogni camera ha un bagno a sé, e molto grande, perché io, ripeto, in 10 anni che abito qui, la buon'anima sia Graziella, se non sapevo, ogni giorno veniva a trovarla, quindi, e qualche lavoro l'ho fatto pure a casa sua, conosco bene quella casa, è molto grande, però non so, parlaci con Vittorio qualcosa, se ti interessa. Io ti posso dire una cosa, che dove c'è al centro l'alberello di limoni, sta andando male, forse è tutta la pioggia che ha fatto l'affogato, cosa di gioco. Ho intenzione di buttarlo e insomma fare un bel plinto e metterci un bel palo. Cazzo, lì è favoloso. Lì è favoloso, tu dici sì, ma una cazzata lì a farlo. Lì è una cazzata a farlo. Si solleva il muretto e si fa il calcestruzzo fuori, ghiaia e coso, il muretto lo fai, il plinto lo fai da un metro, e si getta con la gabbia in ferro, tutto, e al centro si mette il tubo. Bello grosso venne stare il telescopico, alla grande, viene un bel lavoro lì, te lo seguo io quel lavoro, minchia, te le chiede vita, poi come inviate a fare cose a me. No, ci parlo con Vittorio, perché io sto parlando di quella grande, quella che ti affacci per capire dalla cucina tua, che si vede dietro, quella che mi hai detto tu. Sì, e continua di questa, cavolo, se è questa qua proprio, è enorme quella lì, guarda che c'è l'entrata, sia dalla cucina mia, che anche da dietro, perché dietro c'è un'altra veranda, è grande pure, è enorme. Sì, adesso ne parlo, perché se c'è da mettere la posta a giocarsi quei soldi non è una grande cifra, quella è un villone, una bellissima casa, anche perché ho visto che c'è già tutto il giardinetto all'interno recintato, molto bella, mi piace tantissimo quella. Vediamo, devo farmi due chiacchiere con Vittorio a vedere cosa vuole fare, a vedere se riusciamo a fare qualche business, capito? Poi ti spiego in verticale, se domani mattina ci vediamo te lo spiego, perché se mi faccio due chiacchiere con Vittorio e la moglie le propongo un business che può essere per loro anche un grande affare, ecco, mi piace troppo quella zona, molto bella. Sì, ma io guarda, ripeto, non ti comballe. Sai quante volte in queste quasi 3 settimane, con questa fine settimana, che adesso è l'inizio praticamente, sai quante volte in 10 anni io che abito qua, non mai giocare manco di sci, è raro che mi viene voglia di uscire, capito? A meno che voglio trovare qualche amico, prendere un caffè, quello con l'altro, eccetera, però pochi amici. Però nel senso uscire ogni giorno, no, ci sto bene qua, non lo so. Anche se diciamo non c'è niente, però ho il vicinato, ho i cani, non lo so, mi dà un senso di protezione, di fiducia, di tutto, non lo so, io sto bene. No, ma mi piace perché l'ho vista e mi piace moltissimo anche la casa, perché quella si potrebbe fare anche più familiare, capito, volendo, perché essendo così grande io non me ne faccio niente. Quindi potrei fare un business con loro in altre cose che ho e vedere un po'. Devo parlare con Vittorio, poi ti spiego, se ci vediamo domani ti spiego. Capito? E quella diventerebbe una bifamiliare con i due ingressi. Io entro da una parte e mia figlia entra dall'altra, capito? O viceversa. Tenendo anche Monte Oro, non è un problema. E un'altra cosa che vuole fare mia moglie, capito? Va bene, già ne parliamo domani, dai, te lo dico, domani. Poi se quando magari vengo lì mi faccio due chiacchiere con Vittorio, che poi c'ho il numero di telefono che mi l'ha dato, quindi lo posso bruciare mai, non è un problema. Però è meglio parlarne di persona, capito? Qui sta tranquillo, già non disturbia nessuno, puoi piazzare tutto che si vuole piazzare, non c'è problema. No, è meglio perché diciamo, allora, non mi stici per trovare il posticcio, ogni volta che andano a 50 o mi furono un antennino, o mi rubano le patane, o mi fanno quello, o mi graffiano la macchina, cioè, allora, arrivo io con la spesa, tac, domato il mio cancelletto, tac, gioco a casa. Non mi affatico né niente, né fare scale o niente. Dove abitavo il 4 novembre l'assessore del dolce, facciamo un po' piano a piedi, ma meno c'era l'aereo nel disco, meno male, sennò oia. E niente, non mi si gioco nessuno, sono tranquillo, ognuno si fa gli affari suoi. Guarda, lo recuperi tutto in salute, Claudio, fregatene. No, Tony, non è quello il problema, è un investimento, capito? Io qua sto benissimo, non bene, te l'ho già spiegato. Come che sono lì da te, non ho problemi di parcheggio, non ho problemi di vicinato, non ho problemi di niente, di nulla e di nulla. Se no stai, poi certo me ne ero io andato, ma se ci abito dall'87 qua vuol dire che c'è un perché. Ho avuto la possibilità di spostarmi, sono tornato immediatamente perché vabbè la stavamo ristrutturando, però dico non ho nessun problema proprio di niente, sto benissimo. È un investimento, poi domani ti spiego, dai, domani ti spiego bene la situazione. Ne stavo parlando già a pranzo con mia figlia e quindi mi piace, te l'avevo già detto, no, che mi piace quella zona lì dove sei tu. E poi ho visto anche la casa e tu me l'hai un po' descritta, esternamente sembra, se poi c'è da giocarsi una cifra del genere non penso ci siano problemi. Cappa, non è così messa male. E vorrebbe il fatto, penso, l'impianto idrico, che poi non è che è tutta questa grande cifra, forse non so i conti che ha fatto signor Giuseppe, forse sono anche troppo, perché la conosco bene, i muri sono perfetti, guarda, se la vedi non sembra neanche che sia una casa di campagna. C'ha questa bella scala a chiocciola enorme, proprio larga, bella, che sale fin su. E io ho fatto, ripeto, molti lavori per la casa, quindi. Oh, è bella, oh, ripeto, ogni camera ha un bagno, quindi. E vabbè, giù è abbastanza grande, c'è un salone grandissimo, aveva tre salotti che era soltanto da vetrina soltanto. Se tu li vedivi, sembrava una casa dei balocchi, non lo so, guarda, così bello, ordinato, questi salotti delicati, bianchi, con queste decorazioni, guarda, trovo bello. Presumo che ci sia ancora perché giustamente non ho tolto niente. Comunque sì, come cazzo è abbastanza, il tetto è buono grazie a Dio, perché sono quelle tegole come siepe e non che sono molto male, boh, questa tettoia non dentro casa mia ma fuori la veranda, che ci ho messo quei fogli là, però le devo bloccare che sono dovete mettere in buca. E ho osservato molto perché non piove più. Dove pioveva, che ero con la brodo, non piove più. In qualche angolo, sì, devo prendere un altro po' di foglie, ma domani, con calma, me le salgo. Volevo mettere sulla carriola, non ci riesco. Non ci riesco perché sono abbastanza larghi e poi lunghi, e mi vanno messi dritte, orizzontale, verticale, nuda, non ce la facevo, me l'ho presa due in una mano, due nell'altra, e me le sono trascinate sopra. Mi ha faticato, la verità. Un po' di peso c'era, ma, ripeto, a tirare questa cosa, pizza a casa, e vabbè, piano piano, ho detto, beh, gli altri li ho presi più là. E tu lì, bastava fare un fischio, se andate una mano così non è un problema, vedi, domani che sono lì, cioè dopo domani che sono lì, mercoledì, lascio mia moglie lì all'ospedale e un attimino ti avrei dato una mano, lui appena avrebbe finito mi avrebbe telefonato e sarei andato a prenderla. Bisogna approfittare di queste cose, capito? Non è un problema. No, e poi domani ti spiego se speriamo di poterci vedere. Mia moglie mi ha detto no, per il momento non c'è nessun problema per domani. Poi domani a mangiare, la vagina in bici ha cominciato a darmi l'elenco dei rigorsi da fare. Vabbè, comunque in ogni caso domani mattina ci sentiamo, a un caffè già riusciamo a prenderci. Qui ci facciamo due chiacchiere. Perché niente, dai, già te lo spiego domani. C'è un business che forse a Vittorio potrebbe interessare o alla moglie, capito? Da poter fare. Ok, sì, ma per me piace tantissimo quello atto lì. Piace perché è grande e perché, ti ripeto, può nascere una bifamiliare, ma soprattutto perché c'ha quel giardino interno che è favoloso, a me piace tantissimo, con quel poco verde per il cane, senza essere allo sbaraglio come Monteoro, che è grande, tu Lugiammi non sei mai indietro, Lugano, vabbè, invece lì è molto visiva la cosa, molto bello, è postata molto bene, poi è bella la casa, una bella villa quella, la tua è bellissima, Tony, per te va benissimo, è quella veranda che fa schifo, nel senso che se fosse un po' messa in ordine, cazzo, sarebbe stata la fine del mondo, capito? Invece quando go la leva non va bene, perché ti rovina tutto quello che hai. Ma se io, cioè, riesco un domani, se lui me lo permette, però scalo dall'affitto giustamente, a aggiustare, mettere, togliere quelle termiti e mettere tutto come Dio comanda, e poi che non perde più l'identità perfetta, vedrai cosa cambia qua all'interno, perché io me la rivesto tutta e la faccio diventare nuova, Claudio. Hai visto i pilastri come li ho un po' rivestiti? Ora alla fine è tua cosa, e no, che in quella brutta non valeva la pena e mi sono fermato. No, lì deve sparire tutto, né finte tegole, né termite, né nulla, quello va tutto smantellato, ok, va pulito bene tutto il piano in legno, messe le tavole nuove dove devono essere messe, e poi dato il cartone catramato, messo il cartone catramato sopra, la guaina sopra e basta, è fatto un risvolto dove c'è il muro, boh, basta, finito, non venuto nulla da banchi, vi cosa cazzo, tegole contro tegole, termite, non ci vuole niente, nulla, è bello così. E se vuoi puoi fare una cosa fatta bene, le metti il canale dell'acqua col tubo che scende all'angolo, che va direttamente nei affratti il giardinetto dove hai messo i pomodori, e basta, boh, finito, ed è un capolavoro. E lo so, sembra che lui ce lo, me lo fa fare, capito? Questo bisogna parlare con calma, sembra lo fa fare, ma provvisoriamente. Qualche altra volta, tempo fa, gliel'avevo detto, gliel'avevo accennato, e lì mi ha detto no, devo aggiustare tutto, anche la casa sua, elettrico-idrico, ma tu guarda che è perfetta la casa dove abito io, elettrico-idrico, l'ho aggiustato io l'impianto e funziona bene, no, devo fare tutto, io dove me ne vado, qualche posto lo appoggiamo, ma io raggio di traslocarsi 40.000 buchi, da giù a qua, da qua a Marco Lugo, puoi tornare di nuovo qua, no, per fare il dai, poi. Mamma mia che roba brutta, per carità, io una volta solo l'ho fatto, una volta solo, e avrei preferito non farlo mai, 10 anni fa, e boh, praticamente dall'ultimo piano a scendere qua, 10 anni fa, guarda, non mi sono allontanato, palazzo, dal decimo piano al secondo piano, ma avrei preferito non farlo mai e poi mai, ma non i mobili, perché i mobili praticamente li ho messi tutti nuovi qua, il problema è tutto quello che c'era dentro i mobili, c'è stata una ghetta a Garrendi in ascensore, all'altra fara, capito? Una settimana, Tony, per carità, senza contare i quadri, tutte le cose, battono di tende, balle, poi guarda, immaginati tu, se uno si deve mettere a smontare, vabbè, tu mobili non devi smontare, però a portare via tutta quell'attrezzatura che c'hai lì, vivo una ghetta. A parte quello, Cla, tu pensa che abbiamo traslocato da giù, dove ero prima, mia moglie e i miei figli con la carriola. Tu puoi immaginare il casino che siamo stati giorni, per carità, no. Poi adesso ho costruito questi mobili in più, no, la gabellina, ma a me la febbre gialla mi viene, per carità. Dammi qualche minuto, Cla, che voglio guardarmi la coscia e il tacchino, voglio che si brucia. Cazzo, controlla, se no non mangiamo stanotte. Come la via di stampa, la via di Bulla Casarella, ma pure i mobili diretto. Eccomi, Claudio. Ne ho approfittato anch'io, sono andato bene. Riprendiamo il piccolo discorso di poc'anzi che mi hai detto, però io ti freno e ti blocco, nel senso. Domani, se tu puoi, sì, mi fa piacere, ci prendiamo un caffè a casa mia, ma non per dire chissà cosa, perché quando se vieni tu, alle ore 8, io molto prima, io già salito io. A me mi piace fare così, io no, a chiamare gli amici per farmi dare una mano. Avete fatto anche troppo tempo fa. Grazie a Dio, rimane viraggio, le invidi viraggio, lo so comunque. No, Tony, a salire da te domani no, già ci vediamo, ti telefono, mi dici come sei organizzato, non c'è bisogno che vieni dalle mie parti, ci vediamo lì verso la tua zona, non è un problema, non ti preoccupare, tanto domani mattina devo uscire molto presto. Capito, devo uscire presto, quindi può darsi pure che ti chiamo intorno alle 8, capito, intorno alle 8, ti chiamo. fermiamo e ci prendiamo un caffè, così mi posso trattenere un pochino in più, perché poi alle 9:30 devo essere a casa per portare il cane. Capito? Perché devo fare un paio di commissioni, devo accompagnare mia figlia al lavoro domani mattina, che c'è l'apertura al bar. Devo aprire lì, perché apre lì la mattina alle 7 e poi mi devo avvicinare alle 7:30 in Viale San Francesco, in ufficio, al mio cognato. Devo accendere il computer, devo la stampante e tutto, devo arrivare dei fax da Cagliari. Ritiro quelli e poi ti chiamo, capito? Esatto, non c'è problema, poi ci vediamo per il caffè, fai quello che devi fare. Ma domani accompagna tua moglie a dopo di c'è capito? No, dopo domani, mercoledì mi ha detto alle 10:30. Ma sai che glielo chiedo? Ok, vabbè, anche dopo domani. Però giustamente se domani ti svegli prima ci prendiamo un caffè, non c'è problema. Siamo poi insieme, mi fa veramente piacere. E via, sono da un bel po' che non vedo più nessuno, che. No, mercoledì alle 11 la devo accompagnare, Tony. Quando sono lì che lascio a lei, ti chiamo, capito? Ti chiamo. E magari mi avvicino anche con lei, non è un problema. Così le faccio vedere il posto, perché anche lei le piace un bel con la zona. Così con una fava prendi due piccioni. Giustamente ne puoi parlare con Vittorio. Sì, ma infatti, se c'è Vittorio mi faccio due chiacchiere anche con Vittorio, capito? Ma poi domani ti spiego questa cosa, dai. Perché potrebbe essere per loro un po' interessante, dai. Potrebbe essere interessante, a me non. È un capitale morto, mi capite? Quindi voglio proporre una cosa, la cui domani ti spiego. Comunque il mio cosciotto di tacchino è quasi pronto. Un bel profumo qua. Mamma mia, quanto è buono. Lui c'è questa beffa in voce. E niente, solo con lui mi mangio. Un po' giustamente, solo la polpa, vado ai caruzzi. Come faccio sempre, giustamente divido io. Tra loro due e me. Sì, c'ho quelli di Sicilia fine, lo sai, tacchino con me. Comunque, la cosa nel senso, ho preso il pollo, piano piano, a pulirlo per loro. Insomma, la fiefina ci ho mangiato un pezzarello, anche in tutto ci sono mangiato. Soltanto la polpa, si può farle, gli tolgo anche la buccia, pensa un po'. Perché quelli arrosto poi già lo sai, la buccia rimane un po'. Allora penso che anche loro le dà fastidio, allora gliela tolgo. Io li invizio troppo, gara. Li voglio troppo bene qua. E vabbè. Allora mangiamo. E te. Allora vi mando giù, buonasera, ben ascoltato. Stai attento a non darle ossicina di pollo, mica le buca l'intestino, pericolosissimo. Ossicina di pollo, l'ossa di pollo dell'agnello al cane, lo distruggono, lo ammazzano. Capito? Lo ammazzano. Stai attento. Quella molle le puoi dare, la carne, la pelle togligliela, però non le dare le ossa perché le buca l'intestino. Avanti Giulio, buonasera. Ciao Claudio, ciao Tony. Allora mangiamo qui, se pronto mangiamo, ma io a Parcegia, così sono correndo. No, sono di passaggio qua in questa stanza, dai. Per cui ve l'ho sentito e sono entrato a salutarvi. Tutto lì. Avanti Tony. Caparo, ci fa sempre piacere. Ciao Giulio, ben entrato. No Claudio, lo so da ragazzino, le ossa di pollo al cane di buca del modello lo so, ma che non lo farei mai. Anzi, ripeto, troppa fatica per pulire pezzettini piccolini la carne, togliere le ossa da quanto, che poi quando le do con un mollo e meglio non gliele do più. Paccare dai, faccio un fianco. No, basta. Comunque. Andare, dai, comunque non è un bel cosciotto di 950 grammi, Giulio. E devo dividere tra me i 2000 cagnolini. Non è, ne rimane assai, mi. Già mi basta, a me non ti preoccupare, a me mi va 100 grammi, non sono un grande mangione. Sì, la cremuta mi mangio due piatti di batta asciutta e quattro ricchetti, ma comunque ho la tagonia, su quando non mi fuori, ma però, su sei su quando non mi fuori, ma... Luia, se non scherziamo, che è pitina. No, sto usando il cobra, visto che era qualche mese o meglio alcuni mesi senza accenderlo. E così, ho visto che funziona, per cui non c'è problema. Quello che hai visto tu, Mitoni, quello che avevi visto tu, quello lì è. Va bene, avanti Claudio. No, no, funziona benissimo, alla grande. 9-10, sì, radio 5 è perfetta. Non c'è problema. E Tony, cazzo, sono quasi un chilo di carne di pollo, Non è che... noi con un chilo mangiamo in tremmi. Ho preso un chilo di fettine di petto di pollo, ve le faccio tutte e mangiamo in tre, tranquillo. Sono tre fettine a testa, Non è che mangio di ingozzano. È più che sufficiente per te, dandole anche un pochino ai due cagnetti. Non è che se tu si la do a Filippo se la mangia tutta in trea, se consideri che Filippo se ne mangia 350 grammi, mangia una volta solo a pranzo, ma se ne mangia 350 grammi, fatelo conto, non è che ne avanza assai, 350 400, quindi vabbè. Comunque seguila, che è bella, bella croccante, è bella ruspante, come ti si dice, e almeno è una buona cena. E Giulio, non sei da solo, a me piace tantissimo la pasta, a me piace tantissimo, però io uso pasta integrale, non uso più pasta, capito? Pasta integrale oppure quella al grano duro, quella al cellino, oppure quella al mais. Cioè la pasta che praticamente non ha molti come si dice, molte calorie, quella lì uso io. Oramai stiamo usando questa perché a me piace tantissimo e quindi ne mangiavo troppa, e allora abbiamo deciso così, io, mia moglie e mia figlia. Vai Tony, eccola. Va bene, dai, io approfitto che adesso stacco qua, mi vado in cucina, perché non vedo che poi si brucia veramente. Ho visto che era già un punto, l'ho rigirato. Adesso lo taglio, vediamo un po' come dentro, se tocchi spengo il forno e sono a posto. Ne preparo un pochettino anche per loro, poverino. Va bene, dai, ok, rimaniamo così allora Claudio. Domani, giustamente, qua appena è, mi chiami, non c'è problema, ci vediamo. Ok, ciao, stammi bene, lo proseguo, ciao Giulio, lui come ti lo farai, grazie di essere entrato, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, riprendi qua. Salutate, ciao Tony, alle prossime, e anche Claudio adesso deve uscire per portare a Filippo, perché sono già le 7:30 passate, per cui so benissimo che lui stacca a quest'ora, pertanto vabbè dai, vi saluto anch'io. Tanto Claudio sono sicuro che chiude adesso per il cane. Ciao ancora, ci sentiamo alle prossime, a domani. Ciao Tony, alle prossime. Buona cena a tutti e due quando lo farete. Dai, salutoni, chiudo. Ma Claudio non lo porta alle 8 a Filippo? No, sì, 8:20, 8:15, ma adesso mi preparo, infatti stavo anch'io per staccare, adesso mi preparo, perché sono col pigiamone, adesso mi vesto, mi preparo e tanto lui è già è lì, capito? È lì che è pronto, infatti sono già quasi meno 25. Ok, dai, ci sentiamo Tony, buona cena, buon tutto, se magari ne hai voglia ci sentiamo dopo. Saluto anche a Giulio, grazie per essere entrato, io se c'è qualcuno dopo mi faccio altre due chiacchiere, altrimenti ciccia, ok? Già ti chiamo io, ma parto all'altro, se ti chiamo, dai, tutto acceso intanto. Va bene, buon proseguo, buon passeggiata per Filippo e ciao Giulio di nuovo, ciao ciao. Ciao ciao ciao Tony, ciao Giulio, vai, a più tardi. Ok, ciao ciao entrambe, ciao ciao. Adesso in questo momento sto parlando a fare la spesa. No, e tu c'è davanti la portante, e tu chi c'è qua? E io mi sto preparando, sto andando a portare il cane. Quindi non c'è nessuno, da chiudi tutto allora. No, c'eravamo io e Tonino e Giulio, però abbiamo chiuso, io sto andando a portare il cane, loro hanno chiuso, Se ci sei ci sentiamo dopo. Andate, buona passeggiata. Ehi, ciao ciao. Eia, come l'uomo sono rientrato, chiedo a portare il cane, adesso ci lasciamo, beh? Ehi, un altro pochettino. Poi ceniamo, cappa cappa, poi alle 10 devo andare a prendere a mia figlia al lavoro, beh. Cappa, a te che sta cosa, che sta ragione. A rugo si abbassa che sta stazionaria ancora di più. All'umidità. Può essere. Cioè magari a chi. Quel tipo di antenna l'ho fatto, adesso non mi ricordo se. Quando piove si alzano o si abbassano, però è un tipo di antenna un po' particolare. Cappa, me lo fa via la forma. Me lo fa via. Chissà cos'ha, non c'è. Insomma, comunque la ricezione è in un altro pianeta, la verità ti dico. Tu, se c'è la trasmissione c'è anche la ricezione. Lascia perdere a me che sono il bombardiere, ma a me poco me la futti che ci sono i ragazzi. Questa è la mia modulazione da 40 anni e questa rimarrà vita naturale durante, a chi piace e a chi non piace. Ma anche il segnale ti aumenta, capito? A prescindere da chi ha la modulazione bassa, da chi ce l'ha alta, ma il segnale aumenta. Perché se ti è aumentato in trasmissione, ti aumenta anche la ricezione. Prima io non ricevevo così, la verità, ti dico la verità, adesso siete tutti una fucilata. Cioè, siete tutti quanti a manettone siete. Tu anche tu, io ti ho sempre conosciuto con 6, 7 di segnale, 8 quando era la Teloce, ma anche quando sei arrivato lì, arrivavi 8 e mezzo, 9, adesso sei già 9 più 10, Anto, è un buon segnale, quando attacchi sei 9, 15 abbondante, è un buon segnale. Cappa. Adesso cosa stai usando? Il coso, quello con l'eco? Cappa, quello lì sto utilizzando. Tra quello lì, il 550, l'Intec. Quello che uso da 10 anni a questa parte. Lascia questo così, Anto, vai bene, sia di radio che di segnale. Lo chiaro, giamba giamba, ottimo per la truppa, capito? La truppa fa la fotografia, ma fa subito che arrivi a casa. Minchia! Vabbè Anto, io sai, sono una zona molto alta, uso radio che ci hanno più di 10 watt, questa adesso sta dando 20 watt, 30 modulati. La radio è quella che è, quindi è chiaro che ho aumentato tantissimo, capito? Però anche tu stai andando bene, vedi, hai già la possibilità di arrivare anche a Muro, di farti due chiacchiere anche con quelli fuori Sassari, mentre prima non era fattibile. Già con la boomerang ci arrivavo a Muro, già con la boomerang. Minchia, comunque non lo so pensare se uso quella radio qua. Dice, mamma degli durchi, allora sì che si intendono i matracchi. La radio che c'hai tu a casa, c'è la trattinocchi, cos'è 440, cos'è quella lì? Sì, questo è il 440 con l'MC60, ma io alterno un po', accendo il 430, sono tutti con l'MC60, tranne il 140 che c'è l'SM20, capito? Però la radio è sempre quella, sono tre bombarde, quindi non fare affidamento, vai. Cappa, non oso pensare se la tratti in occhi, è tu da canto gatto arrivo. Soprattutto una in particolare che ne hai. Se li dai tutti 150, voglio vedere. Quell'altro, quello che ti ho fatto sentire l'altra volta, Anto, io di potenza ne ho tante. Posso arrivare da 5 watt, 3 watt, sino a 1 kW e mezzo, anche in AM. Però no, non mi interessa, capito? Le radio, quella che dà di più di tutti è il 440. Quella c'ha 100 watt di portante muta e 150 modulati in AM. E così in modo laterale, così in FM. 430 un po' meno. Il 140 già si difende bene lo stesso, un centinaio di watt già li tira fuori. Infatti io come vedi il lineare non ne uso. Tranne il DAC che è quello c'ha 100 watt. In SSB è 50 in AM, capito? Va bene che va bene, cosa mi hai mandato qualche foto? Ma non la vedo Antonio, me la fa vedere, devo cambiare il telefono, capito? Dopo me la controllo, dai. Dopo cambio telefono e me la controllo, perché c'ho WhatsApp che non sta funzionando bene. Prenditi il re di me, showmi, che stava andando forte quei telefoni, c'è una bomba. Io ne ho avuto già il primo, ho avuto il secondo. Cazzo, non ce n'è per nessuno, oltretutto carica subito, la carica rapida. Io ce l'ho tutticcio, ma è una bomba lì, come telefono, cavolo. Pompa, pompa un bel. No, io ce l'ho, ce ne avevo uno di scorta, ce l'ha cambiato mia figlia, che è un S8, capito? Lei ci ha preso il 10. Questo che ho io è quello aziendale, quello che avevo quando lavoravo, che mi ha lasciato l'azienda, capito? Mi aveva lasciato l'azienda. Però, ti ripeto, stiamo verificando se è un problema di WhatsApp nella mia linea, se è un problema di linea di internet o se è un problema di telefono. Io il telefono ho già portato a controllare, non c'è niente, quindi si suppone che sia la mia linea che è andata a casino. Infatti adesso sto cambiando gestore e vediamo come si comporta con il nuovo gestore. Se funziona bene WhatsApp con il nuovo gestore vuol dire che era l'altro gestore che praticamente mi sta creando problemi. Capito? Vabbè, vediamo, dai. Non è che mi interessi più di tanto, già faccio il cambio. Lo metto nel telefono di mia moglie che c'ha un'altra compagnia e mi riguardo da lì. KK di Roggio. Io ho aggiornamenti facendo vista quel telefono. Lì bisogna fare gli aggiornamenti, se no si bloccano. Tutto fatto, Anto, tutto fatto. Resettato, reinstallato con l'aggiornamento nuovo. Tutto che è un problema di internet, capito? Perché quando io tolgo la mia scheda e vado con l'altro telefono, non lo fa. È un problema, non so cosa è successo, non lo so, vabbè, comunque. Vediamo, devo andare mercoledì. Devo andare mercoledì alla Windy 3 perché il computer ce l'ho su Windy 3 e vedere se è tutto a posto, faccio il cambio, se no devo aspettare perché ti ripeto, il telefono che ho io è ancora aziendale, non è interessato a me, anche il numero. E quindi l'azienda mi sta facendo il nulla osta col cambio, il cambio di destinazione d'uso del telefono e dopodiché posso cambiare gestore, se no non posso cambiarlo. Se cambio gestore devo annullare questo numero, perdo tutto e fare il numero nuovo, capito? Adesso ho capito. Insomma, a me funziona benissimo, a me è una bomba Windy 3 proprio. Funziona che una meraviglia ed è veloce, te lo faccio vedere. C'è qualcosa di strano, c'è un telefono, perché non è possibile. Ma infatti hai detto bene, forse non mi sono spiegato io ho Windy 3 nel computer di casa ed è velocissimo, è perfetto, mentre ho la TIM nel telefonino, ci sono 20 anni con la TIM io, capito? Siccome mi hanno aumentato anche la tariffa e pago un bei soldi, allora ne approfitto anche a cambiare compagnia col telefono e passo a Windy 3 anche sul telefonino. La TIM, ma caridai, già qualche anno che non ci abbiamo più. Ah, ma si è imbastardita, non ho capito perché, io qua era sempre tutto a posto, ho capito, da quando, non lo so, da un paio di mesi a questa parte non ricevo più come devo ricevere, il telefono è molto lento, i messaggi su WhatsApp arrivano a cazzi suoi, Facebook vabbè io non ci vado, però anche quando vado su eBay sul telefono è molto più lento, mentre prima non era così, capito? Perché il mio è un S6, non è un telefono vecchio, perciò ha sempre funzionato bene. Contratto nuovo, ne aveva comprato 400 l'azienda, figurati, e ha fatto il contratto con la TIM, però è intestato all'azienda il mio telefono e anche il numero che io ho, capito? E qui quindi mi sono rivolto a loro, ma ho detto non c'è nessun problema, non sta scherzando. Adesso facciamo la disetta, le mandiamo in un lavoro, le porta la nuova compagnia e si intesta il telefono lì. Ma invece io uso già quello nuovo, però mi serve il numero, mi devono sbloccare il numero perché non è intestato a me. Ah, ecco. Vabbè, aspetti, che poi? E poi te lo passi. E via. Beh sì, mi pare che sia Samsung, non mi ricordo male. Adesso non me lo ricordo. Sì, un Samsung. È un Samsung, va bene. Ne è uscito. Kappa. Cosa ti volevo dire? Un'altra cosa? Niente, vabbè, comunque. Quell'antenna, ho capito, l'hai piazzata. Se ce la fai, come ti ha detto Massimiliano, tu devi innestare un altro tubo e tirare almeno un elemento su, un elemento di un tubo di innesto, quanto è? 2 metri? 2 metri, perché la spirale, in quella misura che hai messo tu, è troppo attaccata al condizionatore, alla staffa. Deve irradiare meglio, capite? Vedrai che migliori tantissimo. Sì, ma adesso mi prendo il tubo da fusaro e me lo cambio. Mi prendo un tubo molto più lungo, da 2 metri, così. Penso che basta, non la voglio alzare là, molto, perché c'ho anche il lucernaio qua, se non si dica che cosa, cazzo me ne vara. È un casino, Non la voglio alzare più di tanto, capito? No, un tubo, un elemento solo, sai che gli innesti sono da 2 metri, no? Gli innesti quello, la sollevi di 2 metri, basta, non devi alzare in piccolo, giusto per far andare un po' più su il collettore della spirale, e vedrai che l'antenna irradia meglio e funziona meglio. Kappa, già mi sta soddisfando abbastanza. Kappa, Daniel, purtroppo siamo in compagnia di un amico che non senti perché, come hai già dichiarato tempo fa, che eravamo sempre qua nel canale 10, sono l'unico che arriva lì ad Oristano, figurati tanto che sto arrivando da Daniel, te lo faccio ripetere su WhatsApp e te lo faccio sentire, Santiago 7-8 con circa 40 watt modulati, Daniel, anche tu sei 5-6-5-7, Daniel, infatti pensavo che era qualcuno sulla 131 che chiamava in barra mobile, invece sei apparso tu Daniel. Ti faccio salutare, anche se in forma non posso traslare da nessuna parte, ti faccio salutare da Antonio Bombolo qua da Sassari, Daniel, ok? Vai Antonio. Kappa, saluti Daniel, anche se non ti sento, io proprio non lo sento, è proprio negativo Oristano per me. Ma non penso che mi senta neanche lui, Comunque salutalo da parte mia. Queste sono bei cosi, vedi, tu stai modulando tranquillo a Sassari e c'è un break da Oristano perché sentono solo esclusivamente a me. È già successo l'altra volta che c'era Gianni con Giulio, è entrato Daniel e le ho fatto sentire che sta modulando da Oristano. Daniel, ti saluta Antonio Bombolo qua da Sassari, che sicuramente non hai sentito, vai. Daniel, sì Daniel, Quascelle, mi dici esattamente quanto ti sto arrivando? Ok, grazie Daniel, grazie tantissimo. Ok, Anto, guarda che ho cambiato il telefono, guarda che ti ho mandato l'audio per farti capire, appunto, che non sto parlando da solo. Kappa, no, ma ci credo. Comunque adesso in un passaggino mi ha rubato appena qualcosa, lo sai. Sarà molto difficile perché qua è 5-6-5-7 Daniel. Forse qualcosa sicuramente, tanto perché non lo sente nessuno. Guarda, Giulio c'è una buona posizione, Gianni c'è una buona posizione. Forse riesce a sentirlo Antonello, Alessio, non lo so, perché c'è la collinetta e scala di ciocca. Io proprio la supero la scala di ciocca, capito? Quindi è molto difficile. Daniel, do appena di gas, Allora, 20 watt. Questi sono 50 watt e quasi 100 modulati. Ha aumentato qualcosa, Daniel? No, io posso posso salire ancora, non è che posso cambiare radio e attaccare anche l'altra che ne era 200 di watt, ma non c'è bisogno, se mi ascolti così con questa potenza a segnale di 7 sono più che soddisfatto, ma anche tu arrivi più o meno così, Daniel, ma avevamo già fatto le prove tempo fa, quindi non ci sono problemi. Ok Daniel, sono in compagnia, ti ripeto, di Antonio Bombolo che ti saluta però non senti, quindi niente, ok, a te ancora, poi Anto ti ripasso il cambio. Vai Daniel, rimani o vai via? Ciao Daniel, un abbraccio grande, quando mi senti mi fa piacere, pompa però perché, quindi vai più che bene, segnale da 6 a 7, oscillante, però la radio è abbastanza comprensibile, è un po' QR-mata ma abbastanza comprensibile. Quando mi senti entra pure che non ci sono problemi, ok? Poi magari se c'è qualche mio vicino di casa qua, magari facciamo qualche prova, vediamo se riesci a sentirlo. Ciao, un abbraccio grande, ti risaluto appunto da parte di Antonio Bombolo, cordialità, e ci sentiamo alle prossime. Ciao Daniel, un abbraccio. Vai Antonio. Salutoni Daniele, ce la risentiamo alle prossime, non so se mi ascolti, ma non penso proprio. Già fai fatica a ascoltare la Sparviero. Vai Antonio. Non è buccia di gioco, arrivi Gusci in diretta a Oristano, Siamo sempre oltre i 100 km, capito? Non è facile perché la zona non è molto, non c'è nessuno che c'ha la zona così che possa arrivare in diretta così ad Oristano. Devi superare la collinetta purtroppo, vabbè. No, ma io mi siamo già sentiti un altro paio di volte con Dani, ogni tanto quando mi sente entra a salutare, ma io non ho problemi con quella zona, arrivo anche in VHF in diretta senza ponti a Oristano, quindi non avevo dubbi che arrivavo anche in 27. E Antu, queste sono cose belle, vedi? Queste sono cose belle, dove arrivi da tutte le parti, no a Rubitino di Gaza, a fondo scala, queste sono cose belle. L'hai sentito l'audio? Te l'ho mandato, si sentiva bene? Sì, sì. Beh, logicamente non so quanto ti arriva, come si dice, non so quanto ti arriva a te lì, ti arriverà 8-9, così è. No, aveva solo 200 watt, Santiago 6-7 arrivava, ma 6-7 a 100 e rotti chilometri, quanto sarà? 150, 120, non lo so quanti ore stanno, ma poi è molto difficile arrivare lì in 27, bisogna avere proprio una posizione ottimale come la mia, capito? Va bene, dai, già va bene così, ottimo per la truppa, esci che abbascio. No, era già abbassato, sono intorno sempre ai 30 watt, 30, ero a 20, l'ho messo a 30, adesso l'ho rimesso a 20. Guarda, vedere, ho aumentato e ho provato a fare una cosa, a separare gli alimentatori, meglio va adesso un pochettino. Ma sì, tanto mi pongo i piccetti, ma che non vengo nulla. 2-3 prova. Hola. Prova tu? 2-3 prova radio, prova radio. Vedi, adesso sei quasi sul 20 Anto, e cosa hai fatto? Ho separato i cosi, gli alimentatori. Vedi, adesso 7-4-7 sta andando un po' di più allora, perché sei quasi sul 20, 9-18, hai aumentato altri 3 punti. Vedi, quindi aveva ragione Antonello l'altra volta che ti ha dato il segnale più alto. Se tu fai delle correzioni, vai bene, vai benissimo alla grande. Scappa. Sì, ci intendi che trudiendi appena appena, però adesso ce la fa perché la radio è separata, sto usando due alimentatori. Esatto, tanto guarda, manca un pelino al 9 più 20, mentre ieri eri 9 più 15, che tu hai detto come mai? Anto, qualsiasi niente è uguale a 40, vedi che se c'è gli accorgimenti e delle cose giuste va bene, adesso sì, manca proprio un pelino al 9 più 20. Adesso io non ne ho, vado dai cinesi e me lo prendo, mi hanno detto che è buono, questo da 20 euro, magari me lo porta bene, capito? Sicuramente te lo porta bene, ma chi te lo geniali che lo sugar cazzo sullo zero sono, minchia. 09. Nel tuo Smith è sullo zero sono, praticamente è quasi a fondo scala. È così, è vero. Una foto mi ha mandato tu, sì. Va bene, va bene. No, dopo mi voglio riascoltare la voce, esce a vedere. Sì, Dario, Quaselle, mi dici esattamente quanto ti sto arrivando? Sì, lo conosco anche, è una mia vecchia conoscenza di quando ho lavorato in quella zona, io aveva da tanti anni già il baracchino, no? Non è un problema. Gaffa, io stavo ascoltando, ma non capisco una cosa, non capisco. Già te la dico a tu per tu. Approfittane, mandami un audio, perché poi devo cambiare nuovamente il telefono che volevo dare a mia moglie, perché il mio, te l'ho detto, ha sicuramente qualche problema sulla linea internet il telefono, perché me l'ha detto anche Massimiliano, perché già da tempo arrivano in ritardo i messaggi e poi non mi fa fare determinate cose su internet, capite? Quindi sicuramente c'è qualche problema, anche se il centro assistenza mi ha detto di no, ma peccato, perché il nuovo sto telefono, sempre custodito molto molto bene, non c'ha manco un graffio, ma ce l'ho un bel po' di anni, Mandami un audio, tanto così ti rispondo al telefono e se vuoi sapere qualcosa, chiedimelo lì. E te l'ho mandato il messaggio? Sì, aspetta che me lo ascolto e poi ti rispondo. Ti ho mandato la risposta, quella è la mia risposta, non c'è altro da dire, Antu. Hai capito, Antu? Antu? Ola. Cambia, Antu, fateci. KK è K di Rogero. Attento, Bob Marley. Luca. Luca Platinette. Beh, Antu, mi sa me l'hanno mangiato io. Ci sei o non ci sei? Tu.